Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Fiato sospeso, controlla il cronometro Shakir, partirà la Juventus, si comincia, è cominciata la finale, finalmente. Inserimento di Iniesta, attenzione, lo scarico, tiro, rete, Rakitic, Barcellona è già in vantaggio, incredibile, Rakitic. Bella l'idea, Lichtsteiner penetra, prova a metterla dietro, Terence si gira, Ter Stegen, Morata, Morata, Morata, Morata tutto solo, ancora lui, 1-1, la finale aperta. Sta partendo Suarez, Messi penetra, cerca un'idea, Messi, dribbling secco, Messi sinistro, Buffon, attenzione, rete. Suarez, Barcellona in vantaggio, acuto di Messi, la firma però è di Suarez. Appoggia ancora Neymar, Neymar, è finito. Il Barcellona è campione d'Europa per la quinta volta, la quarta negli ultimi 9 anni. 3-1, il Barcellona si conferma la squadra più forte del mondo. Ma stasera ha sofferto, la Juventus esce a testa altissima da questa serata. Berlino in lacrime, Andrea Pirlo adesso alla fine, che cosa gli dirai dopo? Non c'è niente da dire, ci dispiace a tutti, poi è molto soggettivo, ecco, il modo di estornare le proprie amarezze, le proprie emozioni. Abbiamo fatto una stagione straordinaria, che abbiamo giocato una grande finale, e nel momento migliore abbiamo subito un gol un po' da polli, dopo abbiamo avuto un paio di situazioni dove potevamo pareggiare. Direi che le finali si sono decise da episodi, abbiamo giocato contro una grandissima squadra e ha 3 giocatori davanti straordinari. Sono una grande squadra, lo sapevamo, ma in finale è sempre difficile, però usciamo sicuramente a testa alta e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Tutti convocati, 8-0-0-24-0-0-24, gli juventini del giorno dopo, li aspettiamo qui. Anche i gufi del giorno prima, lo chiede già un amico che ha scritto al 349-238-6666, vogliamo sentire i gufi, quelli che ieri sera hanno festeggiato. Mi hanno detto, io ero a Berlino, chiedo conferma a Carlo Genta, ci sono stati caroselli addirittura in alcune città, sì. Petardi, scoppi, fuochi d'artificio, c'è una statuina del presepe di Napoli, ho visto che Giorgio De Luca ha twittato, saluto Paolo Condò, ciao Paolo. Ciao Paolo. Giovanni, buongiorno, ciao a tutti. Ciao Paolo. Noi eravamo immersi, ciao, negli applausi di Berlino, ci siamo persi questa parte della notte italiana del giorno dopo. Io sono favorevole al gufismo, ma forse adesso non era il caso, in questa circostanza forse non era il caso. Io ieri sera mi sono alzato in piedi, ho applaudito la Juventus per il modo in cui ha giocato, per il modo in cui ha perso e per il modo in cui ha affrontato il dolore sportivo dopo la partita. Mi sono piaciuti tantissimo. Paolo. Sì, ho seguito un po', poi su Twitter ovviamente, oggi ho avuto tempo perché il mio aereo da Berlino parte appena alle 8 di sera, e ho avuto tempo anche di dare un'occhiata su Twitter e mi ha sorpreso una cosa, nel senso che capisco perfettamente le gufate. Capisco e accetto, è assolutamente legittimo, c'è libertà in Italia. Io per anche. E non è che a Madrid fosse diverso, a Madrid erano tutti con la maglietta bianconera, quindi non è neanche da dire che si tratta di un fenomeno soltanto italiano. E quello che non capisco invece è la comprensione del calcio da parte di tanti che hanno reagito. Ci siamo sentiti dare, immagino che gli altri, siccome tutti i giornali più o meno hanno scritto le stesse cose perché erano le uniche cose da scrivere, e cioè di una coraggiosa e dignitosissima resistenza e combattimento della Juventus contro il Barcellona, partendo da una situazione di chiara inferiorità tecnica, come nessuno aveva nascosto alla vigilia. Tutti questi discorsi sul fatto che siamo dei servi degli agnelli, perché scriviamo che la Juventus è uscita a testa alta, mi lasciano grandissimi dubbi sulla capacità di comprendere tecnicamente il calcio da parte di queste persone. Forse sarà riletto tutto un po' più con calma tra qualche giorno, se qualcuno ne avrà voglia, anche se devo dire io concordo assolutamente, e non potrebbe essere diversamente, con quanto oggi ad esempio ha scritto Paolo Condò sulla Gazzetta dello Sport, ma anche tanti altri. Però è anche vero che forse la Juventus, così vicina al Barcellona, come sull'onda anche emozionale di quel secondo tempo, abbiamo detto e pensato in tanti, forse così vicina non è, Paolo. No, ma il discorso è certo che è lontana dal punto di vista tecnico, come ti direi che qualsiasi squadra che non ha Messi è lontana dal Barcellona, perché dentro ha un sistema di gioco comunque splendido, divertente, costruito per attaccare 90 minuti, come quello storico del Barcellona, e Luis Enrique tra l'altro gli ha dato anche più concretezza rispetto ai tempi di Guardiola. La squadra mi pare meno divertente, meno armoniosa, però molto più concreta, e non potrebbe essere altrimenti, visto che con Suarez e Neymar davanti ha aumentato il suo peso offensivo. Ecco, però detto questo, quello che è più povero tecnicamente deve usare altre armi per restare dentro la competizione, deve usare la grinta, il coraggio, l'ordine tattico e tutta una serie di cose che la Juventus ieri sera ha dimostrato, perché il gol che chiude la partita arriva al 97esimo e dopo che tre minuti prima Marchisio ha costretto il portiere Ter Stegen a una grande parata, a una grande deviazione. Quindi sostenere che la Juventus non sia stata in partita pur inferiore fino alla fine è un falso storico. Certo, la Juventus è stata in partita fino all'ultimo minuto. Paolo, ma noi le partite io le partite sono abituato a leggere nelle due metà del campo, nell'atteggiamento. Per me il calcio non è soltanto fare l'80% di possesso palla perché sei tecnicamente bravo. Era anche la capacità di soffrire, di giocare la partita fisicamente e tatticamente in una certa maniera. Dunque, se quelli che dicono ieri sera la Juventus è stata presa a pallonate dal Barcellona sono semplicemente dei tifosi di un'altra parte. Però possiamo anche provare a fare un'analisi un po' critica. Ad esempio, una squadra che è inferiore, che sa di esserlo e che è in partita, non è un po' presuntuosa dopo l'1-1 a cercare di vincerla subito? Ma no, perché secondo me una squadra come il Barcellona ti concede poche finestre di tempo nel corso di una partita per colpirla, perché è una squadra che ha grande sicurezza, e quindi nel momento in cui quella sicurezza è minata, perché il pareggio di Morata ha minato per una decina di minuti la sicurezza del Barcellona, quello è il momento per colpire. Poi io non mi attacco assolutamente al possibile rigore su Pogba, l'ho rivisto una volta soltanto, poi lo rivedrò con più calma, ma non ho avuto la percezione del calcio di rigore, sinceramente. No, ma tra l'altro devo dire la verità, tu lo possa confermare, noi allo stadio abbiamo finito la partita senza considerarlo un fattore determinante. L'abbiamo scoperto il giorno dopo. Assolutamente no, però Tevez ha sbagliato una palla, Tevez ha avuto la palla a un certo punto, se ti ricordi, sì, pochi istanti prima del 2-1 di Suarez. Ha avuto la palla, ha fatto una girata circa del limite dell'area, poco fuori, e ha cercato l'incrocio e l'ha messa di poco alta. E ha sbagliato perché Tevez ti ha fatto vedere che è in grado di segnare quel gol. Ha sbagliato, niente di male, capita di sbagliare, però è giusto che vinca chi non sbaglia. Avessi fatto tu le pagelle della partita di ieri, che voto avresti dato a Pirlo? Io dissento dai 6.5 che ho letto ovunque, devo dirti la verità. Avrei dato 6, nel senso che Pirlo secondo me ha giocato una partita onesta, come nelle sue attuali capacità, però distante da quello che è il Pirlo migliore, che insomma io spero, per la stima enorme che ho di lui, spero che lui abbia chiuso con la Juve ieri sera e vada in America, in Qatar o dove desidera andare, perché vorrei che, cioè non vorrei vederlo ancora un anno Pirlo. Mi sembra che il deficit dinamico che fatalmente a 36 anni ha possa diventare un po' troppo un po' troppo duro da assorbire. Ecco, secondo me Pirlo l'anno prossimo non partirebbe titolare. Io voglio dire la mia, e così apriamo anche la discussione. 800 24 00 24, noi siamo ancora tutti in piedi ad applaudire la Juventus, però ad esempio la domanda, se ieri Allegri a un certo punto Pirlo non faceva meglio a toglierlo, sì, è una domanda d'accordo. Che si può fare, considerato tutto quello anche che ha detto Paolo Condò pochi istanti fa. 800 24 00 24, grazie Paolo. Ciao Paolino. Ciao, buona giornata. Grazie, ciao, anche a te, buon ritorno. Vi aspettiamo, traffico. Un saluto pieno di energia dal vostro lapo a tutti gli amici di Radio 24. Sono molto dispiaciuto per la sconfitta della Juventus ieri sera, perché volevo allungare la striscia vincente. Tutti convocati. Questa è l'accoglienza nella notte dei tifosi della Juventus all'aeroporto di Caselle. Scrivono invece i gufi scatenati 349-238-6666. Mi dispiace, ma le esternazioni dei non juventini gufi sono la risposta ai tifosi bianconeri, sempre molto pesanti nei confronti delle altre squadre. E poi c'è chi dice tre pere tutti a casa, la Juve ha perso male. Chiediamo a Massimo Giletti. Massimo, buon pomeriggio. Ciao Massimo. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Non ne usciremo mai, dai gufi e dagli antigufi. No, ma io sono favorevole al gufismo, Io devo dire, sai, sono Renzi sempre stato favorevole. L'ha rilanciato, no? Renzi, questo... il concetto di gufo, sì, l'ha rilanciato. Sì, però in questo caso non ha molto diritto di cittadinanza prendersi delle rivincite postume. Hai gufato. Hai visto la Juventus perdere la Champions League, però torno a ripetere, molto onore a questa squadra, a quello che ha fatto per tutta la stagione e anche a quello che ha fatto ieri sera, perché secondo me ha giocato una partita quasi perfetta per quanto era possibile. Io ero lì, ho visto la partita bene, da vicino, quindi hai una sensazione forse anche diversa. Hai un primo tempo dominato dal Barcellona, poi come sempre nel calcio l'effetto psicologico cambia tutto, e il gol della Juventus ha fatto sì che fosse la Juventus a dominare quel frangente di partita, e vedere un contropiede, prendere gol in contropiede dà fastidio, no? Perché la Juventus sapeva che non doveva lasciare spazi e purtroppo lì c'è stato un errore enorme, ma non tanto ma io l'ho chiesto prima, c'è stata un po' di mancanza di umiltà nell'idea di poter cercare subito il 2-1. Intanto saluto anche Pierluigi Pardo, Pier, ciao. Ciao Massimo, ciao a tutti. Credo Pier tu sia ancora a Berlino, giusto? Sì, sono in aeroporto. Ecco, adesso poi allora ti agganciamo subito. Massimo, c'è stato un po' di c'è stato un errore di valutazione, si può anche fare stagione. Ma quando sei lì 20 minuti dalla fine, stai dominando, comunque stai mettendo in difficoltà il Barcellona, viva Dio, una squadra italiana che gioca per vincere. Cioè, queste sono occasioni che capitano una volta nella vita. Era molto in difficoltà il Barcellona in quel momento. Se non l'arbitro avesse visto tra l'altro il fallo che c'era a centrocampo dalla ripartenza, non ci sarebbe stata. E non parlo del rigore di prima, che si può dare o non dare, non è lì il punto. Tu hai questa impressione, si può dare o non dare? Ma io quella non ti dico, io sono arrivato adesso da Berlino, quindi non ho visto il replay, insomma, poi i rigori si sa che possono dare. C'era sicuramente sulla ripartenza che ha portato il gol di Messi un fallo netto, quello doveva fischiarlo, non l'ha visto ed è stato molto grave. Però la Juve ha fatto bene a giocarsela, perché quella era un'occasione fantastica. In quel momento loro erano molto in difficoltà. Vero. Quindi francamente arretrare il baricentro per che cosa? Per giocare di nuovo in contropiede? No. Pier, pensi anche tu così c'è stata qualche sporcatura? Che ripeto, legittima in una stagione fantastica, però mi viene in mente che forse in quella situazione altri allenatori più esperti dell'area che si respira all'altezza delle finali di Champions League avrebbero fatto una scelta differente, magari non avrebbero lasciato la squadra senza cambi fino al minuto 79 come ha fatto ieri Allegri. Io faccio l'avvocato del diavolo, se no restiamo in piedi due ore tutti ad applaudire la Juventus come merita, e però ci fermiamo lì. sicuramente sa Pereira, anche per il momento che sta attraversando, io mi aspettavo che entrasse un pochino prima, però sono ragionamenti così, l'analisi la devi fare nel complesso. Nel complesso io credo che per come era iniziata la partita, perché poi questo secondo me è l'elemento di fondo, no? Io l'avevo detto, pensavo che la Juve potesse giocarsela, però è chiaro che sul 2-0 dopo 3 minuti penso che in pochi avrebbero iniziato questa partita qui, no? Una partita che la Juve riusciva in qualche modo a rimettere in discussione, per la quale a un certo punto dava anche la sensazione di poterla portare a casa, e che poi ha perso giocando praticamente fino al 94esimo con la possibilità di pareggiarla. Quindi io credo che veramente la Juve meriti un applauso. Poi è ovvio che il della Juve, no? Vincere è l'unica cosa che conta, e quindi è giusto ovviamente che il Barcellona si goda la sua vittoria strameritata, lo dico senza se e senza mai, ed è anche giusto che tutti quelli che sono per il Barcellona siano strafelici, perché il verdetto è quello, ed è anche un verdetto giusto, perché il Barcellona è più forte della Juve, però credo che alla Juve rimanga la fierezza di aver giocato una partita buona, tosta, e che poteva girare. È un paradosso, da un lato la fierezza di aver messo in difficoltà il Barcellona a un certo punto della gara, ma diventa anche delusione, no? Se il verdetto fosse stato più netto, sì, non avreste avuto modo di avere rimpianti. Come diceva a Roma, si rosicava di meno, no? Tutto la Juve rosicava di meno. Invece sicuramente il fatto di essere stato in partita, da un lato è molto bello, è molto positivo, ma io credo, ma la parlavo anche con i giornalisti spagnoli, e mi sembra che anche le dichiarazioni degli spagnoli rendano merito alla forza di questa squadra, e credo che l'immagine del calcio italiano venga fuori molto bene da questa stagione europea, senza dimenticarci Napoli e Fiorentina, che comunque sono arrivati in finale. Esce molto bene, insomma. Sì. Spero sia all'inizio. Sì, è mancata la ciliegina, è mancata anche in Europa League. Fammi fare un'ultima considerazione con Massimo Giletti, e intanto saluto Claudio Zuliani. Ciao Claudio. Ciao Zul. Claudio Auf Wiedersehen. Sì, no, l'ultima valutazione che volevo fare con Massimo Giletti è questa. Ha detto Paolo Condò e noi sottoscriviamo, tutti in piedi, un applauso per Andrea Pirlo, grazie e basta, è arrivato il momento di fare scelte diverse. Massimo. Ma ieri sera credo che le lacrime di Pirlo siano forse anche per quello, perché quando ti rendi conto poi che certe occasioni sono le ultime da vivere, certe emozioni non puoi più riproporle, e penso che ci sia stato un po' un crollo psicologico anche in lui. Il calcio è un mondo molto cinico, dove chi ti ha permesso di dominare i campionati, perché la Juventus ha vinto subito e bene grazie solo a Conte certamente, ma grazie anche all'innesto di Pirlo, che ha gestito la squadra in rapidità come non si vedeva da anni. Se non avesse avuto Pirlo alla regia, la Juventus difficilmente sarebbe riuscite a ripartire, a riproporsi come ha fatto in quei campionati. E sì, forse sì, anche perché io sono di una teoria: i numeri uno assoluti devono andarsene via al top. È molto faticoso poi gestire una fase difficile, anche perché oggi il calcio è molto molto fisico, molto tosto, molto duro, quindi a livello internazionale Pirlo fa più fatica ancora di quanto possa fare in campionato. Questa è forse sia una strada giusta. Io no, però giusto, tu hai detto prima, sì, qualche cambio forse andava fatto. Ad esempio Pirlo, perché poi diventano anche condizionanti questi grandissimi monumenti. Io non so, ieri tu ti aspetti una punizione al 90esimo, ma non ti aspetti, non sta in panchina. Pirlo non è uno che purtroppo decide di stare tranquillo in panchina. Il suo temperamento non lo porta a accettare. Mi ricordo un po' di tensione 2 anni fa quando mandò in panchina una partita tipo Pescara, che Conte col Pescara, quindi Conte voleva dargli semplicemente una giornata di riposo. Ci furono anche delle tensioni quando uscì in anticipo 20-30 minuti prima della fine, non andò neanche a sedersi in panchina. Cioè, questi sono giocatori che sono numeri uno, e come tali sono poi complicati da tenere fuori. Grazie Massimo. Sì. Ciao Massimo, arrivederci. Ciao a tutti. Grazie Massimo Giletti. Chiedo a Claudio Schiattone se mi fa sentire quella cosa là che so che interessa molto a Claudio Zuliani. No, aspetta che la troviamo, perché è diventato il grande rimpianto dei tifosi della Juventus. Riusciamo a farla sentire? No. Ecco Pogba va giù, tutto regolare, si arrabbia Pogba stavolta, ci ha strattenato un po' di scena, che dici? sì, c'è, braccio, c'è quella mano, c'è, sì, c'è il braccio sul collo, eh? Sì, sì, di Dani Alves proprio, che lo tira trattiene e lo porta a terra, lo tira giù con la mano sul collo, era trascinato a terra da Dani Alves. Era uno rigore, Claudio. Siamo venuti fin qua, sì, per vedere atterrare Pogba. Ma sì, ma lascia ragazzi, stare. Noi siamo superiori a queste cose, non ci interessano. Sì, giusto, sì, giusto, giusto. Secondo me il non ci punto, l'unica punto cosa è quello, che gradiremo, eh? L'unica cosa che gradiremo non essere presi in giro quando succede dall'altra parte, tutto lì, ma non succederà mai. Mm. Ma ha deciso, è un fattore. Allora diciamo che se c'è, allora, perché tu sai me, che gli anti-juventini poi ti ricordano che Vidale è stato in campo oltre il ventesimo minuto per grazia ricevuta, se proprio si deve parlare di un complottone dell'arbitro turco. Sì, beh, se per quello, allora io vi ricordo che dopo tre minuti c'è una stecca Lichtsteiner che da rosso, se andiamo avanti fino all'infinito. Diciamo che se ci fosse un'altra squadra al posto della Juve faremmo sei mesi, farebbero sei mesi di trasmissione dicendo che gli ha rubato la coppa. Siccome noi siamo di un'altra classe, di un'altra categoria, non ce ne frega niente. Tant'è che guarda che mentre io facevo la telecronaca in diretta, quando l'ho rivisto ho detto mi sembra che ci possa essere rigore, ma evidentemente l'Europa non basta, andiamo avanti. Però non ho avuto il tempo che ha segnato subito dopo. Però se tu pareggi da sfavorito una partita del genere, non ti danno quel rigore sull'azione in contropiede, prendi il gol e perdi la coppa, diciamo che se c'era un'altra squadra i comportamenti, gli atteggiamenti e le considerazioni sarebbero state diverse. Ma ti ripeto, siccome io voglio essere differente, ti dico che è giusto che ha vinto il Barcellona perché merita ed è nettamente più forte, gradirei che si riconoscesse ogni anno che la Juve gioca e vince in campionato perché è nettamente più forte degli altri, e non vorrei fare un'altra stagione in quella quinta giornata mi sento dare del lato, perché allora hai capito, Pier, quindi partiamo da Pogba e Dani Alves, ci arriviamo a Garcia e a tutti gli altri. Pier, era rigore o no per te, Pier? È Aigo, non è Aigo, ma per me era rigore. Comunque si poteva fare. Sì, ma non si poteva dare quella formula che viene usata sempre per salvarsi in corner, per cui tu dici no, si poteva dare. Oggi leggi gli spagnoli dicono si poteva non dare e facciamo pari, insomma. Allora, per me era rigore, ok. Se vuoi sapere la mia percezione, era rigore perché è un posto plateale come tipo di intervento, cioè è proprio una specie di appostamento in area di rigore. E sul discorso di Giuliani, ma insomma, diciamo che sicuramente la Juve ha avuto stile ieri, questo non si fa dubbi, condivido pienamente diciamo la questa considerazione, cioè mi sembra che abbia incassato questo episodio che potrebbe essere un episodio chiave della partita con classe. Poi è vero pure che Vidal con un altro metro arbitrale, perché in realtà il metro dell'arbitro turco è stato secondo me abbastanza univoco, uniforme. Quindi uniforme più che univoco, quindi poi alla fine insomma anche su altre situazioni lui ha tollerato, però certamente con un arbitro di tipo diverso è proprio il momento in cui l'Italia la stiamo monitorando, sta andando, e io non ci vedo, io fai che un po' ti sapete ci penso poco, credo che quel ragionamento la priorità della Juve in Italia sia stata acclamata, ma anche sì, se fai 17 punti per due stagioni di fila, credo che sia anche inutile aprire questo discorso. Dobbiamo fermarci, c'è metodo di pubblicità. Claudio, hai un minuto ad aspettarci perché poi devo farti sentire cosa ha combinato ieri sera il tuo amico Tommaso Ronsero. Resti? Guarda, basta che non mi fai sentire il gol di Morata mio che sono venuto, mi ha tirato su Balzarini che ero sotto il tavolo. Resti. Allora, due minuti e arriviamo. 800 24 00 24. Era nettamente calcio di rigore. Questo sì, se lo dite voi, onestamente adesso lo sto rivedendo per la prima volta anch'io, quindi era un fallo da rigore certamente, però non ci vorremmo nascondere dietro questo episodio, vogliamo, come ho detto prima, affermare la straordinarietà di questa stagione. Certamente questo, se era rigore, ci poteva mettere in una condizione di partita diversa, però bisogna dare onore anche agli avversari. Convocati. Questo Tomás Ronsero ieri intorno alle 21:55 al gol di Morata. Carissimo Giuliani, poi... ma è giusto, lui non è mica tifoso del Real Madrid. Certo. Sì, appunto, però insomma, poi per la seconda volta in questa stagione non gli è andata benissimo, perché lui era anche quello che aveva esultato in maniera smodata davanti al sorteggio della Juventus con Real Madrid, te lo ricordi? Sì. Sì, mi ricordo benissimo, mi ricordo tutto. Però vedi, poi a parte il fatto che ti si rinfaccia sempre subito tutto contro, però al di là di quello, a me invece ieri è piaciuta tantissimo l'atmosfera che c'era a Berlino, nonostante le problematiche, su cui magari un giorno apriremo un capitolo, c'è una porta aperta per 70.000 persone che arrivano, sì, sotto il caldo. No, non benissimo l'organizzazione, lo diciamo a chi non c'è stato, poi magari un giorno ne parleremo. Però l'atmosfera è stata bellissima, la festa prima, tutto il contorno, le due tifoserie anche alla porta di Brandeburgo al pomeriggio, cioè vedere una finale di Champions, tra l'altro con Barcellona Juventus, c'è stato questo caso del rigore, avete fatto sentire voi Marotta che a differenza dei dirigenti delle altre squadre italiane non si è assolutamente soffermato, non si è nascosto, ha dato onore agli avversari, gli avversari si sono complementati con la Juve, cioè è stata veramente l'atmosfera pre, durante e post molto bella, con una partita bella da seguire, con una squadra che ha giocato bene al calcio, l'altra che era inferiore che la Juve, che però a momenti addirittura poteva vincere, poi ovviamente ha perso. Quindi noi dovremmo, secondo me, prendere spunto da queste serate, ma non lo faremo mai, sono sicuro, e capire che dobbiamo smetterla di fare i rionali e dovremo iniziare a capire cosa vuol dire giocare a calcio e andare a vedere una partita di calcio. Vabbè, forse quel giorno io sono anche d'accordo con te, e Carlo Genta con la testa fa segno che è d'accordo con te. Vediamo se hai convinto Giuseppe da Reggio Emilia. Giuseppe, sera, grazie, professione sera. Gufo. Sì, però io tralascerei tutte le cose che avrei da dire, sì, e vi offro una suggestione. Sì. Secondo voi, se magicamente in panchina della Juve ci fosse stato Antonio Conte ieri, facciamo finta che si sia meritato la finale, sì, no? E secondo voi Conte non porta a casa la Coppa? Non lo so io, secondo te Claudio? Ho idea. Non lo so, l'anno scorso è uscito col Benfica, quindi non lo so. Pier? Sì. No, ma no. Che, di che stiamo Allegri, a parlare? Allegri, diciamo che anche prima di arrivare alla Juve, era una delle poche valutazioni positive che avevano fatto in quei giorni, aveva avuto una discreta, credo, curriculum internazionale, cioè col Milan comunque aveva fatto cose discrete, aveva sfiorato l'eliminazione del Barcellona, ricorderete il 2-0, poi ha sconfitto il ritorno con Paolo Di Niang. Secondo me no. Poi chiaramente manca la controprova, è chiaro che se giocano 10 volte magari un paio di volte la Juve vince, perché questi sono i rapporti di forza, secondo me, sulla partita secca, però no, penso che avrebbe, penso no, che avrebbe, no, io ho parlato di allenatori magari più abituati a questo tipo di altezze, e non lo è certamente Conte, non in questo momento, poi magari lo diventerà. Guarda, ma neanche Luis Enrique, e anche Luis Enrique, che però ha Messi, Neymar e Suarez. Sì, guarda quanti gufi che abbiamo, guarda qua, tutti che vogliono parlare con Claudio Zuliani. Cristiano da Brescia, vediamo se almeno lui l'hai convinto. Cristiano. Sì, io sono, sì, convinto. Purtroppo ieri non sono riuscito a vedere la partita con l'audio, ero in un posto grande e quindi non avevo sentito i commenti. Oggi avevo letto la Gazzetta, avevo letto parecchi commenti sul rigore sia di Marotta che di Bonucci, se non erro, e mi faceva un po' ridere, perché poi le cose ritornano e vanno anche alla Juve. E comunque Marotta è un dirigente che c'ha uno stadio con 33 scudetti. Claudio, difenditi. Come se lui Armstrong avesse una casa con scritto 7 tour vinti sulla strada. Sì, Lance, Luis faceva un'altra cosa. Claudio. Allora, come vedi, naturalmente la gente è in malafede, perché sia Bonucci che Marotta, li avete fatti sentire voi, non si attaccano assolutamente al rigore, quindi non fanno commenti ridicoli, anzi dicono, nonostante ci sia il rigore, diamo onore agli avversari. E noi abbiamo 33 scudetti perché li abbiamo vinti sul campo, perché il signore probabilmente al processo di Napoli non l'ha sentito, la sentenza parla di campionati regolari, quindi sono 33, qualcun altro invece ha uno scudetto che non è suo, lo dovrebbe togliere. Claudio da Milano? Non c'è, allora salutiamo Claudio Zuliani. Ciao Claudio, posso chiederti una cosa, un'ultima cosa al volo? Ho degli amici juventini che mi hanno detto delle finali perse, e di finali ne avete perse 4? No? Sei. Sì, sei. Sei. Questa è quella che mi fa meno male, sei d'accordo? Sono Sono assolutamente d'accordo, tra l'altro io parlavo con Tacchinardi finita la partita e lui giustamente dice le due dove c'ero io sono quelle, almeno una in cui ci dobbiamo rammaricare e pensare perché le abbiamo perse, questa sicuramente no. Posso dirti come la penso io? Quanto buonismo, la Juve ha perso una finale di Champions e a un certo punto si era illusa anche di poterla vincere e io insomma non so cosa ci sia da essere poi così sereni, perché poi nel calcio si gioca per vincere alla fine, eh? Però grazie Claudio. Grazie a voi, ciao, buon programma. Ciao. Grazie a Claudio Zuliani. Pier, c'è un amico che ha scritto al 349-238-6666 per chiedere se secondo noi ieri Conte ha gufato invece. Questo non lo so, questo veramente non lo so. Certo, Conte, se Allegri avesse fatto il triplet nel primo anno senza Conte, insomma, sarebbe stato un soprassalto, però è anche vero che Conte, insomma, io credo sia genuinamente juventino, quindi penso che abbia avuto da questo punto di vista dei sentimenti contrapposti. Io ti dico, per me la sostanza è molto semplice, cioè, è ovvio che io ho perso questa partita e è stato benissimo a godere tutti i gufi, ma giustamente, perché è ovvio, perché a Madrid, come avete fatto giustamente sentire, si stavano giustamente tutti per la Juve, quindi non c'è niente di male, il ragionamento della squadra italiana è un ragionamento astratto. Penso in assoluto però che rispetto ad altre finali la Juve sta diventando il Benfica, anzi ha superato il Benfica da questo punto di vista a livello di sconfitte in finale, quindi sta diventando una maledizione. Insomma la Juve altre volte era andata da favorita alle finali, penso a quella con l'Hamburgo, penso a quella con il Borussia Dortmund. Contro questo Barcellona, ragazzi, chiunque fosse arrivato in finale, ci ricordiamo i discorsi che abbiamo fatto prima di Barça-Bayern, sono gli stessi, quindi alla fine contro questo Barcellona fai una buona figura se riesci a rivedere in partita per 94 minuti. Sì, cosa che la Juventus ha fatto. È andata come vorrei anche discutere della gestione dei cambi però su Allegri, cioè quel discorso ci fosse stato Conte a Juventus avrebbe, secondo me è pura aria fritta. Sulla gestione dei cambi da parte di Max ieri sera qualcosa avrei da dire. Ad esempio Pereira che entra così tardi, ad esempio lo stesso Pirlo, Pier, che rimane in campo per tutta la partita quando non aveva più. Lì si è creata una situazione strana perché c'erano due ammoniti dei tre del centrocampo della Juve ed erano gli altri due. Quindi da un lato Pirlo forse era più stanco e quello da sostituire, dall'altra poi gli altri due erano già ammoniti. Non è rimasta. Ma io sono d'accordo con te. È anche vero però che i 10 minuti migliori della Juve sono quelli, cioè alla fine lui entra al 77esimo, entra dopo, diciamo che tra il 60esimo e il 70esimo i 10 minuti migliori della partita della Juve era assurdo pensare a un cambio, sì, forse qualche minuto prima ma subito dopo il 2-1 poteva entrare Pereira, invece ha aspettato un po', però insomma io... Tu dici ripeto, dettagli. Dettagli. No, non è che sono dettagli. Aspetta, fammi salutare Filippo quasi... Maria Ricci che ti sta ascoltando. Ciao Filippo. Ciao Phil. Ciao ragazzi. Anche lui ciao. Reduce dalla trasferta di Berlino. Abbiamo qualche secondo per fargli sentire, a proposito di allenatori di triplete alla prima stagione, che cosa ha detto ieri sera Luis Enrique sul suo futuro e sulla possibilità che se ne vada al Barcellona? Ce la facciamo, sì. No hay nada que confirmar. Confirmo una gran fiesta esta noche y una gran rúa mañana. Y lo demás ya llegará su momento cuando haya que decidir. Che magari se Allegri faceva il triplete, oggi eravamo qui a parlare, così come per Luis Enrique, di un possibile divorzio, perché Luis Enrique se ne va, giusto Filippo? Ma non so se se ne va, non sono così, non so cosa pensare. Certo, voglio dire, dice, parleremo quando bisognerà parlare. E quando è? Perché prima si diceva a fine stagione. Adesso la stagione è finita e non ha detto niente. Sì, lascia pensare che possa andare via, però non lo so, per me sta aspettando qualcosa, un segnale da parte della dirigenza, qualcosa. Però ieri sera i giocatori l'hanno portato in trionfo. C'è una foto di un... così, di un abbraccio con Messi abbastanza comunque positiva, e i tifosi cantano il suo nome. Per me, io dico, per me sbaglia, anche se poi dopo è chiaro che ripetere un triplete è difficile, cioè potrà solo andare peggio, però intanto si gioca le sei coppe come fece Guardiola, che le può vincere, una col Siviglia, l'Atleti Bilbao, poi c'è il Mundialito che non è mai troppo complicato e comunque arrivi a sei coppe. Le cose, sì, è difficile gestire questo spogliatoio, a lui gli hanno, ha dovuto ingoiare Rossi sicuramente, però per me fa un errore, però prima o poi lo dovrà dire, chiaro, adesso ci sono anche le elezioni, questo, questo sì, è, ma anche questa cosa che chi fa il triplete deve andarsene perché non, perché? Non si può migliorare, sta diventando un po' stucchevole, ma non per l'Userie che vale in generale. Aspetta però Filippo perché abbiamo il traffico. Convocati. Un gol che non vale nada, creo que estoy muy triste yo y todo el equipo, creo que este equipo se lo merecía, no hemos podido hacerlo, tenemos que dar las gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando este año, muy poca gente creía en este equipo, hemos hecho creo que un gran año y dar las gracias otra vez a toda la gente que ha venido y que nos ha apoyado desde casa. Questo Morata chissà da ieri sera quanto vale, 4 gol in questa Champions League finale, le due semifinali, un gol agli ottavi di finale contro il Borussia Dortmund. Per chiudere su Luis Enrique, è un po' stucchevole Filippo questa cosa, no? Sì, no, io dicevo, come se Carlius dopo le prime 4 medaglie d'oro alle Olimpiadi avesse detto beh io mi ritiro perché fra 4 anni al massimo cosa posso fare, ne posso vincere 4, no? Attenzione, cioè, Barcellona ha fatto il triplete 6 anni fa, non una vita fa, cioè, no, io non dico che lo può, cioè, qua, diciamo se adesso dovessimo metterci a tavolino, cioè, il prossimo anno il Barcellona può fare un triplete, sì, cioè, può ripeterlo, poi dopo, cioè, ovviamente è complicato, però ci sono delle chance, chiaro, nessuno ha mai vinto la Champions due volte di seguito, quindi no, già si parte ad handicap, però attenzione, questo è uno squadrone, cioè, i tre davanti hanno fatto 122 gol, non so, magari l'anno prossimo ne fanno 100 e già andrebbero male, però sarebbero 100, non so, se ne fanno 80 comunque sono, cioè è una squadra che ha delle potenzialità enormi, non può rinforzarsi granché sul mercato, vediamo cosa succede con Dani Alves, però insomma a me, per me io spero che Luis Enrique resti perché andrebbe via per un, come si può dire, male, cioè perché deve andare via, ci sono degli sapori, è chiaro, uno spogliatoio così gestire uno come Messi è complicato, però fa parte del gioco. Io sinceramente spero che non se ne vada. Poi adesso ha una credibilità che ovviamente si è guardato sul campo che prima non aveva Luis Enrique. Comunque questo dice anche una cosa, ragazzi. Io può essere facile, io poi sono lontano, per me queste cose ovviamente le vedo diversamente. Però quanta poca pazienza c'è in Italia, a Roma. Il suo caso, il caso di Luis Enrique alla Roma è palese, insomma. Non è un cane questo allenatore, si è andato via come se fosse, capito, non vale niente, cioè si bruciano le cose in Italia con una rapidità, una facilità estrema, troppo grande, insomma, e questo è un rammarico perché Luis Enrique l'avevamo in Italia, poteva portare qualcosa al calcio italiano, invece è chiaro che più non avrebbe fatto il triplete con la Roma, ovviamente, però insomma magari poteva farla crescere a livello europeo, poteva, no? Poteva fare qualcosa di più, non lo so, è un vero, a me dispiace. Sì, mancava forse la materia prima, qui l'ha trovata ed è stato poi bravo e capace di esprimersi. Io so che Pier continua a considerare Carletto Ancelotti eventualmente un candidato possibile per la panchina del Barcellona, Pier. Ma ne parlavo ieri sera, a proposito poi chiederò a Filippo se so che Filippo, no? Alle 3 di notte. No, beh, io credo che Ancelotti sarebbe una grande suggestione, però insomma lui mi diceva di Koeman e chiaramente è più preparato di me sull'argomento. Che Ancelotti farebbe piacere, questo non ci sono dubbi, nel senso che sarebbe in questo momento anche alla luce del rapporto che esiste in questo momento con Florentino Perez, per lui sarebbe subito una grandissima vincita, penso che Filippo questa cosa possa ovviamente confermare. Per quanto riguarda Luis Enrique, ma alla fine uno che vince il triplete fa quello che gli pare, se lui l'anno prossimo vuole fare triathlon o vuole provare una sfida da un'altra parte è liberissimo di farlo e io lo posso anche capire un po', insomma. Sì, certo. E poi gli stimoli sono tanto. Sì, noi stiamo qui ad aspettare il primo allenatore che fa il triplete e resta dov'è, provando a rifarlo, perché poi c'è anche questo gusto della sfida, c'è anche, non lo so, se è così difficile che tutti scappano dopo aver fatto il triplete, allora come quando vinci un mondiale, dichiariamo però, ufficialmente che questa è la sfida delle sfide. Del Bosque non è mica scappato, sì. Ci ha provato, ha vinto un altro europeo, insomma, non credo che gli spagnoli siano così scontenti. Però legittimo quando arrivi così in alto pensarci, farci un pensierino. Grazie Filippo. Ciao Phil. Ciao. Grazie a Filippo Maria Ricci. chi è? Ma porca miseria, tirano in ballo sempre la Juve. Oh, Pavel, Nedved, buonasera, sì, rientrato, rientrato Torino. Sì, siamo rientrati con la squadra, sì. È in aereo, sì. E in aeroporto sono stato provocato. Ma no, ma sì. No, ma no, c'era qualche tifoso del Toro, dell'Inter, qualche buffo. Ma no, porca miseria, no. Era steward di aeroplano, sì. Appena uscito dall'aereo mi ha detto che se volevo arrivare a Tapirulan per ritirare bagaglio, sì. Dovevo andare là. Non vedo la provocazione, quindi gli ho dato un bel calcione, sì. Un bel bestone perché? Sulla caviglia. Perché sfotteva per la partita persa, la finale, perché? Dove doveva andare? In una specie di tunnel, sì. Basta con questi tunnel, non si fanno fare tunnel. Ma a no, campioni. Non voleva, non voleva fare il tunnel, non lo tratti come si chiama, il rapper, com'è che si chiamava? Moreno, quello Moreno. Che non poi ha dato cosa, se no è un pestone, sì. Anche qua sul cellulare, tutto dopo, sì, un pestone. I tunnel capitano, si fanno, si prendono. Anche Tevez ieri credo abbia preso un tunnel a un certo punto della partita, non ha fatto niente, non è che si va a prendere a calci gli avversari. Ma per forza non ha reagito, era già ammonito, se sì. No quello non si chiamava più Dani Alves. No, come? Come si chiamava? Dani Fisici. Sì, vabbè, abbiamo sentito tutto. Di meglio. Questo faceva. Abbiamo capito che non ha voglia di parlare della partita di ieri sera, abbiamo capito. Abbiamo capito questo, giusto Pavel? Io non mi sono ripreso, no. Ho capito solo adesso cosa vuol dire, sì. Lavorare per la Juve, sì. Tutti sempre contro la Juve, sì. C'era rigore grande come casa su Pogba, lo vedeva casa. Anche si un cieco, si poteva dare, infatti sì. Io l'ho visto, anche questa grande battuta. Arrivederci Pavel. Sì, ma porca miseria, ma no, stai tranquillo Pavel, no. Buonasera dal centro operativo di Villa Certosa, l'aggiornamento sulla viabilità. Tutto bene, non si segnala alcun incidente. Stop, stop, Cribbio, stop, rifacciamo. Tutti convocati. 800 24 00 24, gufi non gufi, anche chi vuole parlare della questione Milan. Noi avevamo un appuntamento telefonico con uno dei registi della trattativa che ha portato Mr. B ad acquisire il 48% del Milan. Problemi logistici, ma attenzione, perché da qui a qualche manciata di minuti potrebbe succedere qualcosa. Oggi abbiamo letto una serie di interviste sui giornali. Succede. Quindi restate qui che vediamo. Succede. Se riusciamo a raccontarvelo magari anche con un po' di anticipo rispetto agli altri. Pier, ci sei? Sì, ecco. Francesco da Novara, Francesco. Io sono moderatamente gufo. Eccoci qua. Ma sono moderatamente. Ieri non è che ho goduto molto perché sono anti-spagnolo, perché vincono tutto loro. Però... Quindi era difficile. Ieri io. Era difficile. Posso esprimerti solidarietà, Francesco? Sì, però una moderato cosa, gufo. Sì. Da tifoso napoletano, quello che non sopporto nella Juve è l'arroganza. A Napoli ci hanno detto di fare il gallo sull'immondizia. In Italia protestano sempre quando vincono, sfottono gli altri, ma non in modo, proprio con arroganza. Io vedo per esempio quando c'è un fallo contestato, 7-8 addosso all'arbitro, i segnalini non fanno niente. E ieri tutto questo ponton. Faccio solo una domanda e concludo. Sì. Vorrei sapere perché la Juve, che ha vinto tanti scudetti, se si facesse la proporzione tra scudetti vinti e coppie di campioni vinti, è fallimentare. Sì. Allora, se l'equazione che dico indovinare, io... Sì. È che In Italia spadroneggiano perché hanno il potere in mano. Quando vanno fuori in Europa non contano un cazzo. Sì, quindi fino al confine c'è l'hashtag, sì. Oggi, no? Hashtag fino al confine, non fino alla fine, ma sì. Fino al confine. Non so chi vuole rispondere, Pier, Carlo. Ma mi sembra inutile. Abbiamo già risposto un sacco di volte a queste cose. Cioè, è chiaro il sottinteso, perché in Italia hanno gli arbitri a favore, in Europa non ce li hanno, bla bla bla bla bla bla. Lascerei stare, sorvolerei e direi piuttosto che invece ieri non c'è stata assolutamente arroganza dopo partita, anzi il dopo partita è stata una delle cose più eleganti della serata. Mi è piaciuto tantissimo il modo in cui ha parlato Buffon, il modo in cui ha parlato Marchisio, il modo in cui ha parlato Barzagli, il modo in cui ha parlato Bonucci, mi sono veramente piaciuti molto. Riccardo da Luca, no Pier, prego. Soprattutto, no, secondo me è stata un post partita che lascia pensare a un certo tipo di mentalità che secondo me è positiva, perché appunto non mi sembra che si siano attaccati particolarmente agli episodi. Poi è vero, altre volte, cioè, tanto per non girarsi attorno, no? Il famoso discorso sciacquatevi la bocca, tante volte, o comunque altre volte era successo che la reazione non era stata altrettanto composta. Questo va detto, secondo me, ma ne parlavamo l'altro giorno, da una parte e dall'altra, dopo il famoso Juve-Roma, si sono stati avvelenati i pozzi, lo riconosceva lo stesso De Santi, da una parte e dall'altra. Cioè, non sempre abbiamo assistito a scene di fair play e di riconoscimento della forza dell'avversario come è successo ieri sera, però ieri sera è successo, riconosciamolo, insomma, non è che, no, a me è sembrata la mentalità di una grande squadra, quella di accettare il verdetto senza stare particolarmente a polemizzare, riconoscendo la superiorità dell'avversario, che in una partita che a un certo punto poteva anche girare a favore della Juve, però sicuramente 90 minuti ha fatto di più, e ha fatto di più perché è più forte, ma non è solo più forte della Juve, è più forte di tutte, il Barcellona in questo momento. Sì. Sentiamo Riccardo da Lucca. Riccardo? Che... eccoci. Sì, pronto, buonasera. Sì. Volevo dire solamente che ho seguito la trasmissione fino a circa un quarto d'ora fa, però sembrava che per chi non seguiva, che per chi non segue il calcio magari, sentiva la trasmissione e poteva captare una certa superiorità della Juve in questa finale, perché ha avuto sfortuna qui, perché se dà il rigore, perché è qui, perché è là. Allora, se uno analizza la partita molto tranquillamente, ovviamente io non sono tifoso juventino, però nella prima mezz'ora, se il Barcellona va sul 4-0 e Vidal va a fare la doccia perché ha fatto quattro falli, uno peggio dell'altro, sì, la partita finisce così. Per sì, che riguarda però 4-0, Riccardo, mi sa che cadiamo nella categoria che descriveva Paolo Condò all'inizio. Ma Paolo Condò può descrivere quello che vuole, sì, giustamente. Però ci sono anche altre persone che guardano le partite. Poi, se vogliamo per forza incensare la Juventus come grandissima squadra, io non sono assolutamente d'accordo, perché vediamo anche il cammino che ha fatto incontrando il Monaco con un rigore dato 30 metri fuori dall'area di rigore, il peggior Borussia Dortmund degli ultimi 10 anni, e questo è oggettivo. Con il Real Madrid alla fine, vabbè, lasciamo a parte la partita d'andata, lasciamo perdere episodi fortunati, no, lasciamo perdere il Real Madrid, lasciamo perdere la partita con il Real Madrid, lasciamo perdere alla fine, poi anzi a Madrid alla fine, diciamo, se può essere, no, anche meritato il passaggio del turno, no, va bene, comunque poi alla fine il Real Madrid non era poi neanche tutta questa grande squadra, abbiamo visto poi cosa è successo dopo. Comunque la prima partita, dicevo io, quella vera sarebbe stata questa qua, la finale, e non mi è sembrato, ma come si può dire che le due partite con Real Madrid non sono partite vere? Ma come si può dire una cosa del genere? Non l'ho detto, o vincere 3-0 a Dortmund che aveva vinto il girone. Ma io lo dico perché uno sia oggi strafelice per la vittoria del Barcellona, per me, sapete, io e Genta soprattutto siamo dalla parte dei gufi, nel senso che Un attimo, Pier, prego, che poi facciamo rispondere a Riccardo, poi ci sono anche Vincenzo da Modena e Paolo dall'Aquila, Pier, e poi sentiamo Riccardo. Pier. No, io dico questo, che secondo me al netto di tutto, cioè del fatto che sono strafelici, giustamente, gli interisti, milanisti, romanisti, napoletani, è ovvio, lo sappiamo benissimo, così come sono depressi i tifosi del Real Madrid, non c'è niente di male nel gufare, ognuno tifa per la squadra gli sta più simpatica, se gli è più simpatico il Barcellona della Juve, ma non è che deve tifare per la Juve per decreto, ma ci mancherebbe altro. Chiaro. E al netto del fatto che ha vinto la squadra migliore, però se noi a questo punto ci facciamo prendere questo atteggiamento, allora non vale più niente. La Juve è arrivata in finale di Champions League, ha eliminato il Real Madrid, il Napoli era arrivato in semifinale di Europa League, la Fiorentina con Montella che è stato contestato perché è stato preso a pallate dal Siviglia, soprattutto al ritorno, era arrivato in semifinale di Europa League, i risultati sono oggettivi, se li buttiamo via allora vale tutto. Secondo me la Juve quest'anno ha fatto una grandissima stagione europea e ha perso meritatamente in finale con la squadra più forte di tutti. Siccome la storia la scrivono i vincitori anche nel calcio, il giorno dopo ci sta tutto. Riccardo, ti diamo la conclusione, poi c'è il traffico. Secondo me invece non ha fatto una grandissima stagione in Europa. No, secondo me no, perché ieri ha giocato un quarto d'ora. poi se quel quarto d'ora lì lo volevamo far diventare 100 minuti, facciamolo diventare 100 minuti, però del gol annullato al Barcellona, gol di testa di Neymar, sfiorato con la mano, che tanto era gol lo stesso, cioè sì. Guardiamo, ho capito. Allora vale tutto, Riccardo. Allora, vale, allora diciamo che la Juventus ieri ha fatto cagare ed è arrivata immeritatamente in finale ed è stata presa a pallonate dal Barcellona e dopo un quarto d'ora era 4-0, perché se vogliamo dire questo diciamo anche questo, però mi sembra che si stia un pelo uscendo da una cornice ragionevole di quello che è successo, no? Riconoscere i meriti e i demeriti è una cosa sana, è una cosa che fa bene a tutti, è una cosa che fa bene a tutti. Poi è ovvio che il triplete la Juve non l'ha fatto, l'ultima squadra italiana, l'unica squadra italiana che ha fatto il triplete è stata l'Inter nel 2010, e nel 2010 anche l'Inter ha avuto delle difficoltà durante la prima parte, poi però è stata meravigliosa nella costruzione. Ma ci vogliono sempre, Pierluigi, dei momenti favorevoli, degli episodi favorevoli. Il Milan nel 2007 se non ci arrivi passivo, e poi sì, hanno vinto la Coppa. Le cose cambiano col passare dei mesi. L'adrenalina del momento, sì. Lo sfottò, il dirsi ti è, hai beccato, oppure sono felice, eccetera, eccetera, oppure sono triste, sto rosicando. Passata questa cosa qui, noi, soprattutto noi che più o meno dobbiamo valutare possibilmente in maniera oggettiva la stagione, dobbiamo arrivare a una sintesi. La sintesi è che io ho fatto una grande stagione europea, ragazzi, ma se discutiamo questo, ma allora di che cosa parliamo? Siamo, secondo me è anche una grande finale. Si può discutere di tutto, una grande finale tenuto conto del valore di un avversario superiore. Si può discutere di tutto, tranne che di una cosa, che è l'ora del traffico. Quasi una maledizione, i numeri delle finali delle Juventus. Ma le maledizioni. Finale. Di solito, anche se sei più forte, hai il 51% di probabilità di vittoria, ecco. Noi quest'oggi ce ne avevamo molto meno, ecco, per cui siamo partiti sfavoriti, come era normale che fosse. Ecco, non credo che sia quella di oggi la finale su cui recriminare. Tutti convocati. Bella la teoria che era tocco di mano, ma tanto sarebbe entrata lo stesso. Esatto. Allora, c'è chi chiede se con ieri Messi ha vinto il quinto pallone d'oro, sì. Pier. Sì. Beh, io credo proprio di sì. Una roba mostruosa, e questo attacco, secondo me, è l'attacco più forte della storia del calcio. Questi tre sono una roba assurda, sono una roba veramente fuori dal mondo, e credo che unendo questi tre a Xavi, che ha appena finito di fare la storia con il Barça, e a Iniesta, che per me ieri è stato il migliore in campo, insomma, io credo che questa è la squadra leggendaria, la squadra che ha vinto 4 delle ultime 11 Champions League, è la squadra del terzo millennio, di questo decennio, senza alcuna discussione. Ieri l'ha posso dirti, Pier, posso dirti che questo Barça mi piace di più rispetto a quello di Guardiola, del tiki-taka spinto? Gusti personali, per me, per il mio gusto personale, anche è più divertente. Ma ieri è stata una partita divertente. È stata una partita, ecco, forse di questo abbiamo parlato poco. È stata una partita diversa da quello che onestamente mi aspettavo. Nel senso che, lo diceva anche Zidane l'altro giorno, ci aspettavamo una Juve che facesse partita difensiva per imbrigliare. Poi, invece, chiaramente il gol dopo 3 minuti, che nasce dal merito del Barcellona, dal demerito della Juve, per carità. Però quel gol dopo 3 minuti sposta la partita anche dal punto di vista tattico. E la rende bellissima fin dal primo tempo, col Barcellona che ha avuto 1000 occasioni per fare il 2-0 trovando un grande Buffon, e con la Juve che però nelle situazioni in cui ripartiva comunque la sua pericolosità ce l'ha avuta, secondo me più di quello che io onestamente mi aspettavo. Quindi ripeto, per me la prestazione è stata all'altezza, soprattutto alla luce di come era iniziata la partita. Cioè, secondo me, dopo 3 minuti, in pochi avremmo pensato a una partita del genere. Io non pensavo a una partita del genere. Io a quel punto pensavo che ci potesse essere il tracollo, perché prendere gol dopo 3 minuti col Barcellona significa inevitabilmente consegnarti, sì, sì, alla partita che questa squadra può fare meglio, quella con i grandi spazi e i 3 fenomeni. È stata brava la Juventus a difendere la sconfitta, pure in un primo tempo molto difficile. Sì, a limitare i danni. Poi è vero, perché so benissimo quello che tanti scrivono. Super Buffon, certamente. Buffon fa il portiere. Con un portiere normale la Juve poteva stare 3-0 alla fine del primo tempo. Però è pure vero che il portiere è parte del gioco, non è che esatto, Buffon il Napoli, il Napoli ha beccato, al di là del furto arbitrale, il Napoli in semifinale ha beccato Boico, che gli ha parato tutto, che chiaramente è un elemento di sfortuna visto dal punto di vista dell'avversario. però dal punto di vista del portiere sta semplicemente facendo il suo dovere. Poi sai, non è che Buffon si sia fatto una prestazione fortunata, perché è uno scarso che Buffon è Buffon. Ieri sì, sera ci ha abituato Buffon, più volte a queste cose. Nella migliore delle maniere possibili. Arrivo a dirti che dei grandi vecchi della Juve è quello che non ha tradito Pirlo, ne abbiamo parlato, anche Tevez Barzagli, è stata la sua finale. Barzagliona ha giocato una sì, Vincenzo da Modena, Vincenzo. Sì, buonasera. Eccoci. A tutti. Cercavate un gufo, ve ne trovate no, un altro. Ne abbiamo trovati tanti. Sì, ne tanti, c'è anche chi ci dice che abbiamo rotto le palle con i gufi, però oggi telefono solo oggi telefono solo questi, e quindi questi mandiamo in onda. Non decidiamo no, ma vabbè, ma è l'altro, Vincenzo, è l'altro aspetto, sì, ma è l'altro aspetto delle partite, no? Del calcio, voglio dire, io sono un interista, chissà quanti gufi. Ma è bellissimo. Va bene, siamo tutti favorevoli al gufismo, l'abbiamo detto mille volte. Allora, ho sentito gli ultimi due interventi che hanno in gran parte esaurito il mio, perché volevo parlare appunto che io ieri sera ho visto solo il secondo tempo e a un certo punto davvero ho avuto una paura boia di vedere lo spettro del triplete della Juventus. Sarebbe stato un dramma questa mattina. Una tragedia. Restano due cose, i tifosi dell'Inter in questo momento un po' gramo, io lo dico, so che non mi farò degli amici, ma mai state in Serie B e il triplete. Aspetta Vincenzo, perché mi voglio chiederlo anche a Ivan Ramiro Cordoba, se un po' dentro, io non credo che abbia tifato contro la Juve, ma se l'idea che l'Inter sia l'unica che è rimasta col triplete in Italia un po' questa mattina gli ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Ciao Ivan. Ivan? Ciao, eccoti, ciao. Hai tirato un mezzo sospiro di sollievo? No, sarebbe anche legittimo, eh? Allora, è normale, no? Che comunque senti di aver fatto qualcosa di molto importante e ti rendi conto che è molto difficile, no? Riuscire a fare quello che abbiamo fatto noi. Fa piacere comunque rimanere essendo molto sincero per aver solo ricascato in Italia che è riuscita a fare il triplet. Ma secondo te quanto è lontana questa Juventus da poter salire in cima all'Europa? Quanto gli manca? Ma guarda, io credo che ieri a un momento. Aspetta che c'è qualche problema di collegamento, vediamo se riusciamo a riagganciare la linea. Intanto sentiamo Paolo dall'Aquila, proviamo a richiamare Cordoba. Paolo, buonasera. Eccoci. Buonasera. Salve. Allora, volevo fare un intervento sulla partita in relazione un po' all'orgoglio come juventino di come gestisce la campagna acquisti ed è arrivato ad una finale indubbiamente con gente che ha tutto un altro stile di difesa. E quindi era logico che ci si poteva aspettare una partita durissima dove cogliere quelle poche occasioni che l'avversario concedeva. La domanda era: quanto può aver influenzato l'assenza di Chiellini con un tridente così forte, mancanza di un difensore così roccioso, visto che non se ne è parlato poi tanto? Io credo tanto, Pier Carlo, relativamente. Io credo poco, credo relativamente. Ecco, perché poi alla fine Barzagli e Bonucci hanno fatto una buona partita, l'ha detto anche ieri Allegri in conferenza stampa. È chiaro che era meglio avere Chiellini, sicuramente era un'alternativa in più, avrebbe giocato titolare, però onestamente la Juve lì in difesa ha tenuto. Devo lasciarvi un minuto, però non buttatemi giù che devo passare sotto al controllo, se no non parto. Insomma, ti lasciamo lì a Berlino ad aspettarti. Intanto stiamo lavorando per ripristinare il collegamento con Ivan Ramiro Cordoba. No, io però penso è stato onesto, che ha detto un Barzagli comunque a tre quarti servizio perché rientrava da un infortunio non abbia dato le stesse garanzie. Poi ha giocato bene, però Chiellini è un'altra cosa. Riproviamo con Ivan. Ivan, mi senti? Ivan? Sì, avevamo perso. Ti avevamo perso. Cosa manca, quanto manca secondo te alla Juve per essere pronta per vincere la Coppa? Ma no, penso che non manchi tantissimo. Io credo che comunque arrivare in finale è qualcosa di importante. Credo che ci sono i giocatori che sicuramente adesso avranno finito un ciclo con la Juventus, ma di sicuro penso dalle dichiarazioni della società si cercheranno di rinforzare la squadra e vedere che cosa succede, perché comunque non è mai scontato arrivare in finale. Abbiamo fatto comunque un buon percorso e ripeto, sì, è difficile, devi avere sempre al massimo in tutti i reparti, e in questo momento è dura competere con altre squadre che ci sono in Europa. Sì, ho l'impressione che la Juve rinnoverai nei prossimi mesi e che questa sia la base giusta per provare a prolungare e riaprire un ciclo e comunque restare ad altissimi livelli. Cordoba, che da oggi è insieme alla sua fondazione, Fondazione Colombia Techiero, la fondazione che Cordoba insieme alla moglie ha aperto e con la quale fa dei progetti in Colombia per aiutare i bambini e affiancarli nello studio e sostentarli con le cose minime che in Italia sembrano scontate, invece spesso in Colombia non lo sono. Da oggi, con i Mi Games, da oggi al 14 giugno in centro a Milano in via Moscova, poi ci saranno anche altre tappe, è un'iniziativa che serve per raccogliere fondi per la tua fondazione e anche per un'altra onlus che si chiama Ocapia e che si occupa del Ruanda. Questa è una bella cosa, perché poi Ivan Ramiro è un campione anche di tante altre cose, non è stato soltanto quello che abbiamo conosciuto in campo, Ivan, e quindi molto spesso si spende in queste com'è cose. Com'è la situazione in Colombia? Allora, prima di tutto grazie per la possibilità di far sentire alle persone e magari avere la possibilità di ricevere qualche aiuto per questi bambini in Colombia che hanno tanto bisogno. La situazione in Colombia è meglio perché da una decina di anni che si cerca di crescere in tutti i sensi, adesso c'è un processo di pace che è in piedi e speriamo che si raggiunga il prima possibile. Però ci sono in tanti posti situazioni disagiate delle persone che hanno sofferto in tutti questi anni di violenza fra la guerriglia, fra militari, il governo, tutto quanto. Allora andiamo lì ad aiutare queste persone, soprattutto i bambini, ci teniamo e quindi adesso sono molto spinto insieme a mia moglie per dare una mano a quelle persone che hanno più bisogno. Ed è proprio un bel progetto. Siamo alla ricostruzione. Pier, ci sei? Sì, ci sono, mi stanno facendo un controllo al computer. Sì, che non hanno mai fatto. Allora, intanto io ho un paio di curiosità per Ivan sull'Inter invece, perché ieri abbiamo sentito Toir dire che già dall'anno prossimo lui conta di costruire una squadra competitiva e che questa è l'unica strada per risalire e magari tornare in Champions. Manca tanto e tanto lungo il percorso? Sì, manca sicuramente, però già c'è la mentalità di fare questo, di costruire una squadra per vincere, vuol dire portare certi giocatori importanti, e di sicuro avranno con il mister Mancini una possibilità molto più vicina a quella di fare un bel progetto per raggiungere la vittoria, no? Lui lo ha già fatto in passato, penso che anche questa volta può ripetersi, e quindi mi fa piacere che la società capisca questo, che se si vuole puntare su grandi obiettivi bisogna puntare su tanti giocatori di un tipo di livello, no? Sì, ti ha un po' deluso Mancini o l'Inter quest'anno ha fatto il massimo che poteva fare? No, mister, non è facile prendere una squadra così a metà strada e soprattutto lui riesce a dare il meglio quando comincia il primo giorno di ritiro a lavorare con i suoi giocatori, perché è uno che cerca di è molto pignolo nelle poche indicazioni che dà, quando si lavora in ritiro, sono non sono difficili, ma sono precise e devono andare quasi alla perfezione per farsi per fare il gioco che lui vuole, veloce, pochi tocchi, per cercare di fare la differenza così. Allora, se lui ha la possibilità di lavorare dal primo giorno con tutta la squadra, è una cosa diversa da quella che ha fatto in questi mesi, no? Sì, e ci vuole tempo per costruirla. Grazie, Ivan. Ciao, Ivan, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie a te, Ramiro Colo. Pier, ti teniamo ancora qualche minuto, possiamo, prima che ti imbarchi? Sì, sì. Tanto, sì, un outsider c'è, eh? Vavrinka, ha vinto Roland Garros. Ha vinto Roland Garros in finale contro Djokovic in 4 set. Mai l'avremmo detto. 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Grande, grande Vavrinka. Torniamo subito. He's been working very hard to form a team, to build a strong team. We need to support Roberto Mancini. Icardi, one of the future stars for us. That's why we want to keep a team and build big teams together with Roberto Mancini. Tutti convocati. 800240024. Prima di salutare, Pier, voglio sapere da te cosa ne pensi della svolta del Milan, perché ci siamo salutati venerdì che non stava succedendo nulla e poi ci siamo svegliati sabato mattina in viaggio per ci siamo salutati quando? Giovedì e venerdì, ci siamo insomma, venerdì, a un certo venerdì, punto venerdì. Abbiamo scoperto che il Milan aveva cambiato ragazzi, vengo da 10 ore in macchina per tornare da Berlino, dovete portare tutti pazienza. Comunque morale, qual è il tuo pensiero? Morale, no, Berlusconi questa volta ha fatto un altro colpo di teatro inverso rispetto a quello precedente. Però mi sembra molto interessante come svolta, nel senso, mi sembra che per il momento, per quello che è dato sapere al momento, Berlusconi ha ottenuto ciò che voleva, cioè tanti soldi con la possibilità di mantenere ancora il controllo della società, è un ruolo importante, quindi insomma, no? La moglie, com'è, la botte piena, la moglie ubriaca, in questo momento i soldi sono tanti, mi sembra, la valutazione che ho fatto mille volte questo scorso deriva anche dalla forza di brand del Milan, alla quantità di successi internazionali, in qualche modo si lega anche col discorso che abbiamo fatto oggi, legato al fatto che la storia dei vincitori, il Milan con le sue 7 Coppa dei Campioni vinte nella storia e più della metà di quelle vinte in totale dal calcio italiano, ha un brand di un certo tipo e quindi ha la possibilità di essere di vendere il 47-48%, insomma le percentuali date da voi, per cifre veramente molto importanti. Mi sembra un bel colpo, poi bisognerà vedere se questi 150 milioni verranno realmente investiti per il mercato, ma mi sembra che ci siano i margini per una crescita, per una risurrezione. Anche se molte cose, no? Bisogna stare attenti, perché vediamo se riusciamo entro le 19, perché insomma c'è qualcosa che si sta muovendo anche questo pomeriggio nei rapporti anche umani tra Berlusconi e Mr. B. Vediamo se entro le 19 riusciamo a darvene conto. Aspetta, Pier, tu stai tornando da Berlino, giusto? Sì, ti stai per imbarcare? Allora, dai qualche consiglio a Carlo da Treviso, che sta tornando anche lui da Berlino. Carlo. Ecco, ciao a tutti. Prego. Tu non in aereo, come stai tornando tu? In auto, stiamo tornando in auto, è stata una bellissima esperienza, anche se purtroppo abbiamo perso, però tutto il contesto di Berlino, 2 giorni a Berlino, vissuti serenamente tra tifosi juventini e del Barcellona che veramente hanno condiviso questa festa, è stato bello. Poi peccato per come è andata a finire, più che altro c'era amarezza per il fallo su Pogba, che è vero che alla fine Barcellona ha meritato, però il fallo su Pogba, noi eravamo lì sotto la curva, l'abbiamo visto bene, ci è sembrato chiaramente rigore e i tifosi juventini erano parecchio arrabbiati, perché comunque se dava rigore, metti che la Juve lo segnava, poteva cambiare veramente il corso della partita. Poi il Barcellona nel complesso, per l'amor di Dio, ha meritato, niente, cioè ha meritato nel complesso della competizione. La vinta meritatamente. A che punto sei del viaggio, Carlo? Siamo quasi arrivati. Ecco, volevamo dire un'altra cosa. Sì. Ci è dispiaciuto non aver trovato Pardo in giro per Berlino. Pensa che invece Pardo, qualcuno ha scritto al 349-238-6666, esatto, dicendo in tanti hanno scritto, ieri abbiamo incontrato Pardo, porta di Brandeburgo, zona di Berlino. Vabbè, salutali Pier, dai, che così. Siamo arrivati. E per quella che è stata la mia esperienza, ovviamente insomma una professionale, però io confermo quello che diceva il nostro ascoltatore, cioè sono stati due giorni molto, molto sereni, molto tranquilli, non c'è stato nessun problema fra le tifoserie. C'è stata qualche difficoltà dal punto di vista organizzativo, lo sappiamo bene, i cancelli assolutamente non adeguati, però insomma è stata, no, si dice retoricamente, una festa dello sport, è vero, insomma, è impressionante vedere l'entusiasmo che muove il calcio, è proprio questo a livello sociologico, vedere il tipo di esaltazione, di adrenalina che provoca in tutto il mondo questo gioco, e devo dire che sono stati due giorni molto belli. Poi la partita l'abbiamo detto mille volte, però insomma, io sono sempre dell'idea che certe emozioni vale la pena viverle, al di là del gli almanacchi rimangono soltanto le squadre vincitrici. La Juve veramente da questo punto di vista, con le sei sconfitte si sta costruendo insomma un pedigree da perdente nelle finali, però insomma comunque io credo che sia meglio per mille motivi arrivarci alle finali. Sì, meglio esserci che essere davanti al televisore, come hanno fatto in tanti, anzi come hanno fatto tutti gli altri, ma anche gli altri, anche il Real Madrid, girano meravigliosi fotomontaggi della formazione del Real Madrid davanti a un maxi schermo 64 pollici. Ciao Pier, buon ritorno. Ciao, buon viaggio, ciao, ragazzi, domani, ciao, Pierino. Ciao, ritorno anche a Carlo da Treviso, ovviamente con la sua utilitaria che è arrivato quasi a Treviso. Saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao buongiorno, direttore. Buon pomeriggio a tutti. Ti convince Mister B? Aspettiamo di vedere, certo, è importante. L'iniezione di denari che sta arrivando sul Milan sono denari che sembrano veri e importanti, che servono per rifare la squadra che ne ha bisogno parecchio, servono per costruire lo stadio e per ripianare un po' di debiti. È importante, se no il Milan avrebbe dovuto accontentarsi di una squadra da media alta classifica, così è un Milan che può ricominciare a sognare. Adesso bisognerà vedere come si trasformeranno questi soldi in giocatori e che mercato farà il Milan. Hai l'impressione che non sia ancora stato scritto tutto in questa vicenda? Sicuramente, perché la cifra è così grande. Ma anche a partire da maggioranza e minoranza. È così importante, anche se la paragoniamo a quello che ha pagato Torino per l'Inter poco più di un anno fa, che bisogna vedere poi effettivamente quali diventeranno poi i rapporti minoranza-maggioranza, perché pagare quasi 500 milioni di euro per restare in minoranza e lasciare che Berlusconi continui a gestire il Milan con chi lo ha gestito in questi anni, magari certo brillantemente per gran parte di questi 28-29 anni, un po' meno nelle ultime stagioni, però insomma veramente lascia pensare, non ci credono in molti, dobbiamo capire cosa succederà e quando ci sarà eventualmente il passaggio di consegne. Però certo Mr. B sembra finanziariamente molto, ma molto solido. Certo, sì, nessuno al mondo, direttore, può andare lì e sganciare 480 milioni. Sì, per dire fatene voi quello che volete. Esatto, per far comandare qualcun altro. Cioè, qualcosa non è difficile. Non è possibile crederci. Io non so nemmeno se i nomi che si fanno in questo momento, Ibrahimovic e Dani Alves, sono i due che riempiono la fantasia dei tifosi, siano poi eventualmente davvero una buona strada, la soluzione. Hai ragione, perché insomma restare sempre legati al passato. Ibrahimovic è stato un grandissimo per il Milan, l'errore era stato lasciare partire lui e Thiago Silva, però adesso sul mercato con certi soldi a disposizione si può anche cercare qualcosa in prospettiva, qualcosa per costruire veramente un Milan che entro 2-3 anni possa aspirare ad arrivare dove è arrivata la Juve. Però bisogna fare in fretta a capire quali sono gli assetti societari, cioè i soldi ci sono, chi fa il mercato, chi decide, quali sono i personaggi. Sì, bisogna fare in fretta a capire se Galliani cosa avrà la delega completa ancora, quanto il fondo Doyen interverrà sul mercato suggerendo giocatori a Galliani. Comunque sai, rispetto agli ultimi mercati, quando bisognava inventarsi e andare a cercare il giocatore a parametro zero, mettere insieme il pranzo con la cena, è comunque un cambio epocale. A quanto come mi risulta l'arrivo di Mihajlovic, certo, rompe sicuramente una tradizione, parte Allegri di sì, il Milan e allenatori milanisti, e vai a prendere un giocatore che ha sicuramente una caratteristica straordinaria, che è quella dello spogliatoio, si capisce bene chi comanda. Il Milan, spariti i senatori, lo spogliatoio era un po' sì, diventato il punto debole del Milan. Quindi sarà interessante capire i rapporti con Berlusconi. Sì, sarà divertente. Ecco, infatti, come dicevo io, sarà divertente vedere Berlusconi che al venerdì o al sabato sarà a Milanello e dice: fai giocare questo o quell'altro. Sì. Si rischia di finire con le mani addosso. Mihajlovic, anche se Mihajlovic, l'ha detto lui, ha studiato per diventare paraculo, e mi sembra lo sia diventato straordinariamente. Però, sai, fare un corso accelerato da qui al 5-10 di luglio, quando ci sarà il raduno del Milan. Abbiamo il traffico, io trattengo ancora Umberto Zappelloni, poi vediamo un po' di capire anche cosa sta succedendo intorno però al Milan, a Berlusconi, a Mister B, proprio in questi minuti. Traffico. Avete parlato anche di Ibrahimovic? Abbiamo parlato di tante cose, la età avanzata non mi consente di ricordare tutto. Non ci credo. Nemmeno io. Tutti convocati. Possiamo vederti in Italia a giocare? Sono possibilità, perché no? Sono possibilità, è grandissimo l'equipo in Italia, e io già ti dico che ora mi tocca studiare tutte le possibilità che io tengo, e se tengo che a Italia, pues, chiedi un'offerta dall'Italia? Sarebbe un placer. Hai possibilità, vamos a studiare lo che hai e tomaremo la decisione. Questo Dani Alves ieri ad ingrassare le fila di quelli che potrebbero essere da Milan, potrebbero essere nel nuovo Milan. Scrive un amico al 349-238-6666: se Mister B si è dato una deadline oppure continuerà ad investire fino a quando non avrà recuperato il capitale bruciato. Qui entriamo nei tecnicismi, non lo so, giusto direttore, siamo all'alba di un rapporto, non che è tutto da scrivere. Esatto, che lui si presenti, che racconti esattamente quello che vuole, che ha in testa, insomma, aspettiamo. Diciamo che ci sono 8 settimane per definire esattamente tutte le il passaggio delle azioni, però 8 settimane per il mercato sono troppe, quindi spero che intanto siano diciamo liberati i soldi per il mercato e si chiarisca su chi andare per il Milan dell'anno 21. Intanto è un rapporto comunque da costruire anche a livello di sfumature che abbiamo visto hanno contato in questi mesi. E ad esempio mi risulta che Mister B non abbia apprezzato quanto scritto negli ultimi 2 giorni, un paio anche di interviste che ci sono oggi sui giornali, uno è anche la Gazzetta dello Sport. Sì, perché questo Dana e quindi nelle prossime ore preciserà, forse nei prossimi minuti preciserà un po' anche il peso e il ruolo di alcuni personaggi, e soprattutto credo voglia ribadire che almeno in questa fase non esiste alcuna intromissione nell'area tecnica del Milan, quindi mi pare di capire il mandato di Galliani rimane pieno almeno in questa fase. Sì, entro 24 ore credo che verranno chiarite un po' di cose, sì. Qualcuno che raccontava di essere così vicino a Mister B doveva fare dei passi indietro, e i nomi anche che sono usciti, è uscito anche il nome di Cannavaro, forse rientreranno prontamente in scuderia, perché sembra che Galliani abbia carta P, carta bianca anche da parte di Mister B. Questo lo scopriremo presto, credo tra qualche minuto. Ha annunciato un comunicato in arrivo. Credo tra qualche minuto scopriremo tutto, e quindi scriveremo un altro capitolo di questa vicenda. Grazie, direttore. Ma chi vince in Canada? Chi vince in Canada, direttore? Ah, c'è anche la Formula 1. Vince Raikkonen, dai, bisogna avere fiducia. Vince sì. Anche perché Vettel è dura, quindi... no, quello mi sembra impossibile. Parte dal fondo. Altro che la Juventus col Barcellona. Grazie, direttore. Buon Gran Premio e buona serata. Marco da Macerata, Marco, vediamo se riusciamo a farlo, eccoci. Sì, buonasera. Prego. Niente che dire, gli juventini sono orgogliosi della partita di ieri sera. Sì. Di più non si può dire. Dopo, vedere stamattina che a Napoli sono i fuochi d'artificio, è un peccato, perché non so che dire. Comunque ringraziamo tutti i tifosi contrari alla Juve ieri sera. Hanno voluto bene. Vabbè, insomma, è anche questo un segnale di forza, Marco. Non te la prendere. No, il gufismo. Posso dire, Marco, tu non hai mai gufato contro nessuno. Ma guardi, mai. quando ha giocato l'Inter la finale, penso di no. No? No. Quindi a, a cos'è, 2010? 2010, Marco da Macerata, tifoso della... Non ha giocato a favore dell'Inter, ma neanche contro. Ah, cioè ha guardato la partita come, come guardare un bel film. Un tifoso thailandese quasi, qualsiasi. Quasi. Va bene, grazie. Non ero contentissimo. No, no, cioè, comprensibile, eh. Grazie Marco. Pronto? Buonasera dottore. Oh presidente, no, abbiamo sempre questa fortuna. Buonasera, allora buonasera. Ci racconti bene di questa trattativa, di questa vicenda. Buonasera, buonasera. Dottore. Buonasera. No, sì. Mi scusi, non è il dottor Cacchione? No, no, ma che Cacchione, Capuano? Ma sì, il veterinario. No, no, no. Dudù, no. Le spiego, Dudù ha bisogno della pulizia del tartaro. Male oggi, non lo e stiamo no, pensando oggi, anche, purtroppo, sì, di castrarlo, sì, no, perché l'altro giorno ha circuito, anche tentato, no, di concupire la Presidente, nostra Presidente, lei è in diretta, è radio, Radio 24, quindi la radio è solo 24 ore, stiamo parlando, stavamo proprio parlando del Milan, quindi lei sta sbagliando, quindi se ci racconta questa cosa, de, insomma, che ha venduto mezzo Milan, ci fa piacere. Lei si grande riferisce novità. È una grande novità. È una lei grande si novità, riferisce, sì, a Mr. Big? Sì, è a lui, che in realtà è B, ma fa niente. Non è una Biro, è Mr. B. Senta, dottor Cacchione. No, Capuano. Dudù, sì, si vede che qualcosa deve aver preso dal suo padrone, sì, ha tentato di fare la festa alla nostra no, golf. Presidente, quindi... questa è la trasmissione sportiva, tutti convocati weekend. Stiamo parlando della cessione del Milan, Lei ha scritto tutti, ha trovato quello che ci mette i soldi e quindi... Ma lei sta parlando, sì, di che cosa, mi perdoni, perché io non riesco, sì, non riesco a l'investitore per il Milan, l'investitore per l'investitore, Milan. Beh, sì, se non sbaglio l'hanno detto tutti, sì, i mezzi, esatto, si trattava di un ROM. Ma no, quella era un'altra storia, l'investitore a macchina, su, Presidente, dai. E le ha preso questi soldi, ha preso questi 500 milioni per il Milan. Ma guardi, carissimo Genta, sì, il trapianto di capelli e la pompetta nuova, tutto insieme. No, no, no, lei ha venduto, ma per favore, lei ha venduto, non si può dire, lei ha venduto il 48% del Milan a Mr. B. Ora vuole i giovani, promettenti in tutto il mondo. Sì, le posso, sì, anticipare che ne abbiamo già preso uno veramente bravissimo. Sì. No, finalmente. Trombo. No, si ma chiama Embolo. Embolo. No, esiste, si chiama Embolo. Io, sì, trombo, se mi perdona. No, no, ma no. Dottor Cacchione, insomma, sì, il suo appuntamento lo dà al Presidente. Cane, che... No, questo era ovviamente Andro Mercù. Era ovviamente Andro Mercù. Bene, noi ci fermiamo qui, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Andrea Roccabella e Carmelo Lauricella, che sono alternati in regia. L'appuntamento con tutti i convocati, Carlo Genta più Luigi Pardo, è per domani dopo il GR delle 14. Noi torniamo invece domenica prossima dalle 17 alle 19. Troveremo qualcosa di cui parlare? E come no? C'è la nazionale. Troveremo, cioè, qualcosa di cui parlare. Ma certo. Promesso, domenica alle 17. Abbiamo sempre molte cose, ciao, di cui parlare. Direi che più di questo stasera non potevamo fare. Sicuramente l'anno prossimo faremo meglio. Tutti convocati.